mai provo nel malva a tormento egual al mio, privo di fille, addio, non riposo non trovo. E amabile giovinetto, quanto è caro! Qual ninfa questa, come attenta mi guarda! E pur grazioso! Ti saluto, bella ninfa gentile! Ti riverisco, ma sì, legito, perché mesto così vai tu girando per quest'ora di sede? Voglio strato in traccia di una pietosa manca d'Occidente. E dici ti sperato, dimmi al bella cagione. Arcadio da qui, per in quel suo dipendi di Paganin, pariamo a tua mano. Il nome della ninfa! Filide. Già compiose si rande notte, e sol macava il rito, quando di l'infelice, mentre i fiori impovriva il prato, per far deserto alle mie chiome, addio! Avvelenosa serve, traffica in una mano, cade e morito. Dunque, fili è morta, che disgrazia! Ma perché? Ora tu m'ascolta! Io accevo l'amore e dall'amante che l'innovo si chiama. Un tempo corrisposta s'era fra noi concluso il matrimonio. Quando dopo ad un tratto si innamorò e costui di certa ninfa, questa Celia Savella, forse di me men bella, in un momento tutto acceso per me il nuovo ardore. L'abbandona così quel traditore. Il caso tuo mi interdisce a seno, che sol potendo io già farti vorrei. Tu farlo puoi, già che pietoso sei. Ma che bravi da me. Che parli a Celia, e li rimedi a figlia offesa io sono. Tutto farò.